chicos! Buonasera! Buonasera a lei, Gabby, buonasera! Ciao, buonasera! E allora? E allora tu come? Mi facciamo una prova che non lo... Sono da un po' che non lo faccio trasmettere qua. Ma stai lavorando? No, stavo facendo dei lavoricando, però non avevo più voglia, non avevo ispirazione, quindi stavo andando in... questione lavoro su... Io non c'ero l'altro giorno, e poi è capitato che ieri non c'ero, eccetera eccetera, quindi non sono neanche entrato. Va bene, poi mi spiegherai come funziona questo affare. Ciao.